Non ci sono storie, siamo precisi come orologi svizzeri. 7:30 minuti primi. Sempre se il nostro orologio è preciso, eh. Venghi o si arrivenghino! Servizio colazioni, pane, burro e rock and roll, la nostra ricetta con l'Ariele Spadino, Friccantoni. C'è anche Mr. Trombetta, che festa grande! Oggi ragazzi, l'ho detto, sto messo male. Puntata 139, problemi là fuori, beh, BC67 sembra di sì. Mi scrive al numero di SMS 335-177-77. Scrive così: premetto che mi piace la topa. E quindi è toscano questo qua. Sposato con due figli. Ma stanotte ho sognato Robert Plant. Eravamo vicini vicini, è grave? Adesso BC, non voglio fare il, così il freudiano di turno, ma bisognerebbe un attimo approfondire questo vicini vicini, cioè dipende molto. Se era vicini vicini vicini, io insomma, un esame di coscienza me lo farei. Se era vicini vicini, no, c'è niente di male. Comunque siamo in squadra con te, stai tranquillo. Ce n'erano altri di problemi. Sì, ho io un problema da quando hanno pubblicato il mio nome su internet, su Wikipedia. In molti si divertono a scrivermi. Tra l'altro, caro amico che hai scritto questo SMS, non sono l'unico di Rock FM a essere su Wikipedia, mi sembra che siamo su tutti. C'è un ascoltatore che si sta occupando dello sdoganamento di Rock FM su Wikipedia e c'era un altro di problema, questo qui, sì, ma lo affrontiamo nel corso della puntata. Tanto si riprende. Finita la base, finita. Vi va una corsetta? Però una corsetta bella sostenuta, per le 7:30 del mattino. Bisogna correre come all'inferno. Dum, dum. E io faccio la chitarra effettata con la bocca. Diventate anche voi musicisti rock con la bocca, non ve ne pentirete. Anche voi in macchina, almeno voi che potete, fate gli scemi, no? Voi sul pullman, anche voi, dai, ma che ve frega, dai. Amici scolari, ce la fate oggi? Che palle andare a scuola. Venite qui, via Locatelli 1, si fa la festa, ok? Fino alle 9, vi aspetto. We'll be right back. nostra intenzione qui a Pane, Burro e Rock and Roll era quella di lanciare un messaggio. Voi l'avete recepito e avete tutta la nostra riconoscenza. Lei sta parlando della campagna a favore della cartolina postale. Grazie, ancora grazie per aver aderito. Siamo veramente in ritardo, sta arrivando il Natale e noi siamo ancora qui a ringraziare chi ci ha spedito le cartoline ad agosto, ma erano tante! Troppe, grazie. Andiamo a salutare grazie. Pietro, Caterina, Franca e Irene, Francesca e Pierino, in quanti? Alle spalle i monti, davanti il mare, nel cuore. Pane, Burro e Rock and Roll. Grazie. Da Sciarborasca, Cogoleto, Genova. Panorama. Sì, esatto, una panoramica interessante. Trasferiamoci al mare, a Rapallo, e Riviera Ligure. E rimaniamo in Liguria. Ce la scrive Luca da Milano. Me mi piace scorreggiare. Una citazione. Chissà di chi vuole dirlo. Beh sì, è largo l'avanguardia, 1978-79. Mi piace il francobollo. Sì, esatto, tra l'altro. Chi sì, rappresenta? Primo Carnera. Primo Carnera, la montagna che cammina. Grazie all'amico Luca che ci ha spedito questo meraviglioso scorcio di Rapallo e passiamo a Trani, Molfetta e Giovinazzo, un trittico per questa cartolina. In un colpo solo un trittico. Arriva da Chiara, direttamente immagini della Puglia. Grazie alla fulminata Chiara, come del resto lei stessa si descrive e si firma, ed aggiunge: uè, Rock FM, indovinate chi vi scrive, ma sono io, Chiara, la fulminata. Grazie, passiamo dal trittico pugliese ad Agerola. Agerola, e chi non sa dov'è Agerola? Tutti quanti sanno che Agerola è Amalfi, Napoli, nella campagna. Giusto, sì, va bene. Il tempo è bello, il panorama pure, ma la cartolina sonora manca dalle vostre voci. Un saluto a Rip Check, che gentili. In sigla Jack Rip. Ringraziamo. Grazie, grazie. Se non ci fosse stati voi a mandare le cartoline, non avremmo mai potuto combattere lo strapotere dell'SMS e del computer. E beh, che c'è? So your brother's bound and gagged, and they've chained him to a chair. Won't you please come to Chicago just to sing? In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? We can change the world. We are ready. Just stay. take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. In the ground, I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Bob Dylan. 7:44 minuti primi. Miei cari radioascoltatori frazionati, così venite chiamati voi, di quest'ora della giornata, quindi che non riuscite a gustarvi tutte le due ore di pane, burro e rock and roll, il buon Spadino ha questo vizio di volervi riproporre cose andate in onda nella seconda ora. In realtà è andata in onda settimana scorsa questa. Fa parte della rubrica immaginazione. Questi documenti che abbiamo solo noi di pane, burro e rock and roll, nei quali sdrammatizziamo le più grandi incisioni della storia del rock. Dovreste sapere di cosa sto parlando. Nello specifico sto per mandarvi in onda un documento legato a Mick Jagger, cantante dei Rolling Stone, alle prese con la registrazione di Satisfaction, la classica I Can Get No Satisfaction. In realtà, come spesso e volentieri accade in questi nastri rubati, Mick Jagger, ecco, non era proprio al massimo della forma. Vi va di immaginare un po' con noi? Eccolo qui, Mick Jagger aveva bevuto un po' troppo, ma non alcolici, roba gasata. Ok, Mick, are you ready? Yes, man. We got a new song for you today. Yes. Are you ready? Very, very, very hot. Are you fucking hot, man? Yes, I am. Are you my man, Mick? Yes, I'm your man. Okay, guys, we got Satisfaction. I can get no satisfaction. Okay, perfect, you got it, Mick. Are you ready? Yes, I am. Let's go. Let's go. It's 3, 2, 1. It's rolling, Mick. It's rolling for you. That's right. Okay. Okay, guys, you got it. Yes. Strong me. I can get no satisfaction. Oh, sorry. I'm so embarrassed. No problem, Mick. Maybe it was the lunch. Yes, 12 hamburger for lunch. Maybe it's too much. Yeah, I think it's too much. Are you ready for another session? Of course. Thank you. Are you fucking ready, Mick? Yes. I'm fucking ready, and I'm so sorry. No problem, Mick. Are you my man, Mick? I'm your man. Are you ready to roll? Yeah. Are you ready to rock? Of course. Are you ready for I Can Get No Satisfaction? Oh, yeah, absolutely. Okay, you got it, man. You got it. It's a 3, 2, 1. Are you ready for rock? Yeah, it's rolling. Are you ready, man? Are you ready? Good sound, strong sound. I like. No! I can get no satisfaction. Oh, pardon. I have no words to excuse me. No, it's not a problem, Mick. I'm so embarrassed. No, it was the hamburger, yeah? and 3 bottles of Coke. Of Coke? Yeah, Coca-Cola, yes. 3 bottles are too much. Yeah, yeah. I think it was the problem, okay? Yeah. It's not you the problem, it's the Coke. Yeah. Maybe it's better if we record tomorrow. Yeah, tomorrow maybe. Bye, Mick. See you tomorrow. Versione ufficiale targata Rolling Stones. Mercoledì 28 novembre. Ringrazio la redazione che mi ha rintracciato gli SMS dedicati all'amico di Rotterdam che aveva grossi problemi con la vicina che organizza after hours di musica house tutta la notte e lo ha disturbato parecchio nella sua convivenza a Rotterdam. Lui partirà domani e quindi dovremo ricontattarlo oggi. Vediamo di farlo nella seconda ora e consiglio di restare all'ascolto Silvia, che mi mandava un SMS proponendo di aprire una rubrica di come farla pagare ai vicini di casa. Lei ha un problema con la vicina di sopra che alle 5 del mattino si sveglia bella puntuale e scende le scale con i tacchi e cammina sul pavimento, che quindi è il soffitto di Silvia, coi tacchi, disturbandola un pochetto. Silvia, resta all'ascolto e intanto senti cosa consigliavano all'amico di Rotterdam. Ti avviso subito, è roba un po' violenta, è roba che arriva sul vandalico, quindi magari meglio di no. Però è carina l'idea di Silvia di aprire una rubrica dedicata ai vicini. La siga potrebbe essere anche la canzone dei Pancreas. Pancreas sono una storica band di punk varesotto Il vicino è mio nemico, non lo posso sopportare, in un modo o nell'altro io lo devo eliminare. Fa parte del vostro background, no? Vabbè, io ve l'ho cantata lo stesso. Al vicino puzza il fiato e gli puzzano le ascelle, sono queste le due cose che mi rendono ribelle. Poi chiedetevi perché sto messo male, perché sono cresciuto con questi qua. No, scherzo. Sì, li conoscevo, però nulla di che. Vabbè. Amico autista ATM di Milano, sai che la segnalazione che mi fai, tu la butti lì tranquillo, tranquillo, ma a me preoccupa parecchio. È una segnalazione milanese. Ma lo sapevate che su Corso Buenos Aires non hanno ancora messo le luminarie di Natale? Qui Renna ci cova. Mica si saranno fregati anche i soldi delle lucine? Caro autista ATM, anch'io ho notato questa cosa e mi ha spaventato un po' anche a me. Sì, devo confessarlo, perché entrare su Buenos Aires all'alba del 28 di novembre e non vedere le luci, ci puzza di marcio, puzza di marcio. Però la mia idea e l'idea della redazione di Pane, Burro e Rock'n'Roll è che in questo 2007 sembra che i tempi siano maturi per un Natale rock. Questa è la nostra idea. Infatti io vi avviso da subito, ho già cercato in settimana di avvisare soprattutto Tino, il nostro tassista, che so che la piglia male, ma ci sta che quest'anno facciamo il primo Natale rock della storia. Buon Natale, però rock. Qui ci stiamo lavorando, ma non posso dire nulla. Come non posso dire che stiamo facendo un calendario, non posso dirlo, non lo dico. Come non posso dire che abbiamo inciso una canzone di Natale, ma non posso dirlo, non lo dico. L'ho detto, dici? No, non lo dico. Saluti al nuovo gruppo d'ascolto Maestrine Creative Rock, ciao. Ciao a Renato. Stai tranquillo Renato, stai in una botte di ferro, lui sa cosa mi ha chiesto. Saluti anche, vediamo un po'. C'era un messaggio di complimenti molto carino, questo qui. Ogni mattina mi accompagnate al lavoro ed incredibile ma vero, arrivo sempre con un sorriso sul volto. Questo, caro Stefano da Lucca, vuol dire che sei messo un po' male, ecco. Però ti siamo vicini. Gruppo d'ascolto, vecchi d'archettoni, quelli che facevano a pugni con i paninari, per intenderci. La solita massa di violenti all'ascolto. Allora, proseguiamo con... Oh, che bello! Era il 28 di novembre, l'abbiamo ricordato nell'almanacco di qualche annetto fa, quando John Lennon saliva per l'ultima volta su un palco, era in compagnia di Elton John e cantarono questa versione di I Saw Her Standing There. Yeah, and you know what I mean. We'll be right back. Ho scritto un'altra versione dell'inno per noi cavie. Vuoi sentire? Beh, se ci tieni e se insisti. Senti, senti. E forza cavie, per essere liberi. E forza cavie, che siamo tanterrimi. Allora, che te ne pare? Cazzo, frigo, come dirtelo? Secondo me hai bisogno di tanto riposo, te lo dico da amico.